finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Studio 87.9 di Radio Onda Rossa. Mercoledì 27 febbraio 2019, ci stiamo disconnettendo con la disconnection notice in quanto disconnessi abbiamo un po' di afasia, non riusciamo a dire intrappolati qua fra le macchine della radio, le macchine per mandare in onda la musica, i suoni e i deliri. Allora, come sapete, è iniziata la campagna di radioabbonamento della radio. La radio, come sapete, non vive un momento felice a livello economico ed è per questo che abbiamo lanciato questa campagna di abbonamento alla radio. Cerchiamo 1000 persone, 1000 ascoltatori e ascoltatrici, 1000 compagne e compagni che hanno la voglia, la pazienza, il desiderio di continuare ad ascoltare la radio. Per aderire alla campagna è piuttosto facile, basta andare sul sito della radio stessa, www.ondarossa.info. In alto c'è un banner che indica il 30 per 1000. SOS tieni, sostieni. Cliccandoci dentro ci sono spiegati i motivi. Per cui vi chiediamo di aderire a questa campagna e al termine della lettura di questa pagina in basso troverete un tasto, basta cliccarci sopra, aderisci alla campagna e il gioco è fatto. Poi basta continuare e sottoscrivere 30 euro per Radio Onda Rossa per un anno. 1000 di voi ci permetteranno di avere la radio che fa il suo lavoro di controinformazione, di informazione. Di diffusione delle culture antagoniste, delle culture che non trovano spazio altrove. Di comunicazione politica, di sostegno alle lotte che girano nella città, che girano in Italia, che ci stanno nel mondo, che bisogna sostenere, che bisogna far diffondere e comunicare. Ecco, per tutto questo www.ondarossa.info, il sito della radio. avete voglia di scrivere alla radio fra le tante e tanti canali che abbiamo aperti, insomma, per quanto riguarda i social media, c'è anche la vecchia casella di posta elettronica della redazione per le vostre comunicazioni, ondarossa@ondarossa.info. Se volete comunicare invece col sottoscritto, 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto al numero, e infine il numero di telefono della radio 06 491 750. Ci serve anche per sapere che siete all'ascolto, che gradite, che volete che si rimetta da capo. Stasera si parla e si ascolta il suono del deserto, dei deserti del mondo. Quindi suoni secchi, asciutti. White horse, well, I ain't seen him yet. il tutto comincia la settimana scorsa, come sapete, molti e molte di voi hanno scaricato anche la puntata della scorsa settimana, quando insieme al Caronte e al Conte Max siamo andati a ripescare nei suoni degli anni Ottanta, così celebrando un ricordo che era quello di quegli anni della Next Time, di quel periodo. E il tutto viene da questa suggestione, fra le tante band che sono state trasmesse, gli Screaming Trees di Mark Lanegan, e perciò questa sera iniziamo con Mark Lanegan. Il suo lavoro nel 2013, accompagnato a Duke Greywood, che Gerwood, che suona tutti gli strumenti del disco, a parte qualche piccolo inserto, e la suggestione è proprio quella di andare a ricercare i suoni del deserto. Ci siamo perciò imbarcati in questa impresa, andando così a cercare nella discoteca quali potevano essere le tracce che più ci servivano per ricondurci a questa atmosfera. Quell'immagine, a quei suoni, a quei silenzi, a quegli spazi. In realtà sembrava un'impresa così per trovare le tracce per comporre la scaletta. Ci siamo accorti tranquillamente che potrebbero venire alcune puntate riguardo il tema intere. Abbiamo lasciato fuori un sacco di robe, un sacco di deserti del mondo. Abbiamo lasciato i deserti freddi, quelli dove l'acqua manca ma le temperature sono basse. Ci siamo concentrati nella struttura del deserto, quello caldo, quello assolutamente secco e assolutamente invivibile per certi aspetti, eppure così tanto pieno di vita. Qualche tempo fa, qualche anno fa, venne una formazione qua negli studi a presentare il proprio disco, che si chiamava proprio Dry Seas, l'essiccamento dei mari. Tanto più che il lavoro si chiamava Dressification. La seconda traccia da questo lavoro prodotto nel 2016 si chiama Delicious. Eccola qua. nell'ingegneria del suono c'è una timbrica particolare che viene data proprio ai suoni, agli strumenti, all'effetto, che è proprio quella del secco, del suono secco, dry. Oppure del suono umido, sono delle manopole che possiamo anche utilizzare negli effetti per le chitarre o per gli altri strumenti. Ecco, siamo andati alla ricerca di questo tipo di suoni che suggeriscono meglio l'ambientazione che vogliamo proporre, che stiamo proponendo questa sera. Un'ambientazione assolutamente adatta al clima di questi giorni, dei giorni passati, con quei venti da nord, da nord-est estremamente asciutti. E al risultato che stanno portando sulla terra. E c'è il prosciugamento di qualsiasi umidità anche a queste latitudini. Apro un piccolo inciso, come si dice, una comunicazione di servizio per il fantasma che non siamo riusciti a contattare malgrado ci abbia cercato in questi giorni. Così utilizziamo la radio anche a questi scopi. Sì, dai, fantasma, poi ci sentiamo. Dove la trovate un'altra radio con l'uso così privatistico, il primo social? Siamo stati proprio noi a Onda Rossa in questi anni. Allora, prossima traccia, Mars Volta. Un lavoro del 2005, un concept che si chiamava Francis the Mute. Un lavoro che avevamo lasciato come un po' i lavori dei Mars Volta, messo lì e non toccato, non ascoltato per tanti anni. Poi in questa occasione ci è andato l'orecchio ad riproporre, riascoltare un lavoro veramente eccellente, dobbiamo dire, benché all'epoca forse quel tipo di sonorità non ci avesse del tutto convinto. Mars Volta, una di quelle band un po' indescrivibili, le troviamo come prog, ma in realtà la loro provenienza dagli At The Drive-In ci tradisce una origine hardcore. Una traccia di 12 minuti, questa che andiamo ad ascoltare, cantata sia da Omar Rodriguez Lopez, sia in inglese, sia in spagnolo. Tanto è la loro provenienza dal Paso, città al confine fra gli Stati Uniti e il Messico, città al confine fra due stati, ma dentro invece un unicum che è il deserto. Terza traccia, che dura 12 minuti, vi è una radio edit, una versione da 4 minuti, ma che non è adatta a Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa ci piace ascoltare per esteso quel che è necessario, quindi il via al Viaquez, Mars Volta, Radio Onda Rossa, 25 o'clock.

con Omar Rodriguez Lopez, Cedric Brixer Zavala, John Theodore, Ivan Alderte della Peña, Isaia, PK Owens e Marcel Rodriguez Lopez. Mars volta per questo disco. Insieme ci sono per questo brano le chitarre di Joe Frusciante dei Red Hot Chili Pepper e di Lenny Castro invece, che ha introdotto queste sonorità caraibiche. Andiamo in un altro deserto, stavolta in Asia. Thank you. did my ear Ak anacha Yechida mafrida Ben ha'emet La ashlaya ima quindi siamo passati dal Punjab di Junoon, di Shia Bensur, un autore e musicista arabo-israeliano, insieme a Johnny Greenwood. Che ricorderete alle chitarre nei Radiohead, insieme a The Rajasthan Express. E quindi da questi deserti dell'Asia ad altri deserti più mistici, mitologici, quali quelli di Babel, che avete ascoltato, perché non è detto. E una formazione italiana di Tortona, gli UFO Mammoth, non possano confrontarsi con il deserto. E ci spostiamo ancora invece nel Sahara stavolta. Uscita per Imahan. Formazione algerina. Che in questo lavoro del 2018, appunto, che si chiama Temet, se la prende con l'indifferenza, che è la radice di ogni ingiustizia e di ogni sofferenza, a loro dire, e a cui pensiero, a cui ci associamo. Quindi 23:45 minuti primi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Imahan. Tamudre, la loro seconda traccia, eccola qua. ودي اتي تشري تمتى انت غمت السنة تساوين بس هي تزوز عرتا مضال تويد في التالي وين بس هي تزوز عرتا مضال تويد في التالي وين تجرى وتتسي ترخصي كان كرايتك أرزي جب تضهي تلوشي كان كرايتك أرزي جب تضهي تلوشي ترهينات هتكوتي تجهالاتي تامدرين will never be a greater time. L'esercizio della voce. La sperimentazione delle estensioni. La cura nelle note toccate. Raggiungono l'apice in un disco, in un fatto, in una chiusa, come si suol dire. Piano deserto, arancio della luna. In una sessione appunto registrata. Dall'8 al 15 febbraio del 2003. Stiamo parlando di Josh Homme, The Wen, Allen Johansen, Troy Van Leeuwen e Twiggy Ramirez, PJ Harvey e Chris Gross. In questa quarta traccia, appunto, suonata da Chris Gross, che ricordiamo come il produttore di un'infinità di roba, a partire dai Caius, The Queen of the Stone Age e a tanta tanta altra roba. Questa volta alla chitarra Chris Gross e alla voce Polly Harvey. PJ Harvey. Uno studio della voce, della vocalità è quello di un grandissimo, scomparso precocemente all'età di 49 anni, ormai molti anni fa, del 1997. Questo lavoro è del 95, quindi poco prima della sua scomparsa, che raccoglieva quello che era il genere Quali. Genere Quali che vi entra appieno nella filosofia del sufismo. Stiamo parlando di Nusrat Ali, Nusrat Fateh Ali Khan. Che a solo leggere i 49 anni della sua storia, insomma, vengono i brividi, come vengono i brividi nell'ascoltare, brividi proprio lungo la spina dorsale. Gli stessi brividi, diciamo, che abbiamo provato nell'ascoltare la vocalità di PJ Harvey, la ritroviamo qui moltiplicata nella voce di Nusrat Fateh Ali Khan. Quali che rientra in in un pat, in un genere di musica mistica. Qui entreremo appunto troppo nello specifico, nell'affrontare quello che è la corrente islamica del sufismo, che come tutte le correnti religiose andrebbe discussa, criticata, capita fino in fondo. Ma dal momento che siamo a Radio Onda Rossa ci preoccuperemo fra poco semplicemente di fare un contrappunto, sempre in ambito di sabbia, di dune, di deserto. Comunque questa è Lik Dia Apne Darpe e scusateci se la pronuncia non è proprio quella, ma non sappiamo l'urdu. La lingua parlata negli altipiani dell'Asia, derivata in qualche maniera dall'arabo, dal persiano, insomma dalle lingue. Che andarono a sovrapporsi alle lingue locali di questo di questi territori, andando appunto a creare questo idioma parlato da molte popolazioni di quei di quelle zone. Sarevo बात सुनकर हमारी वो बोले बात सुनकर हमारी वो बोले हमसे तकरार करना मना तो सुन कर हमारी बोले हमसे तकरार करना मना बात सुन कर हमारी बोले हमसे तकरार करना मना बात सुनकर सामने जो खुला है का दो का खाना जाना कभी नूका दो अपने लिए उस गली में अभी अपने लिए उस गली में शौके दीदार करना मना Son of the bitch. Yeah. 0018 sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e non poteva mancare dopo la musica sacra qua Wally. La interpretazione sufista di Palm Beach da parte di John Garcia e dei Quaius. Dio dannato figlio di puttana. Ovviamente si tratta di una lunga bestemmia di qualche minuto che pronuncia John Garcia, per nulla offensivo rispetto, almeno noi riteniamo, rispetto a chi professa la professione. E invece avvelenato verso questa entità superiore che si accanisce contro gli esseri umani. Portandoli al malcontento, alle disavventure, alle sfortune, alle avversità della vita. Quindi Caius, lasciamoli lì dove sono e andiamo a un altro deserto. Ancora una formazione italiana, ancora una formazione passata qui negli studi della radio, ancora qui a 25 o'clock, e chissà che non riusciamo a far ritornare meno Gabriele qui negli studi della radio con le proposte della sua etichetta. Stiamo parlando di Black Rainbows. Produzione del 2010, questa che andiamo a presentare, a ripresentare questa sera. Il secondo o terzo disco loro, che si chiamava Carmine Diablo. Per quanto riguarda Black Rainbows, e ancora un omaggio. Alle donne, alle femmine che ci piacciono. Questa è ancora Sony Caius. Aspettate. Questa è The Witch. Le Crembos a Radio Onda Rossa. poteva mancare dell'ottimo surf. Loro suonarono per la radio tanti anni fa al Forte Prenestino. Bel concerto, Rai Daytona e Go-Go Bombs. Fast and Seat Belt si chiamava questo lavoro e abbiamo ascoltato ovviamente Cowgirl and Cactus. Ci sarebbe stata altra roba da mandare questa sera, vi abbiamo detto che sul tema deserto, nel cercare di plasmare questa forma che in realtà è poi indescrivibile, incontenibile, quella del deserto tanto è una forma emozionale. Avete sentito come tanti musicisti provino ad approcciare al deserto? Pur essendovi lontani, c'era ancora tanta roba da mandare. Ripromettiamo di continuare la scaletta nella prossima puntata, aggiungendo altri temi, altri deserti. Minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock 06 491 750. Non ci ascolta Alessandro, quello della marcia indietro, ma lo salutiamo ugualmente. Concludiamo con un producer, come si dice, con un artista, un DJ che ha scelto di vivere nel deserto. Portandosi appresso con lui tutte le sue idee su il secco, l'asciutto, l'isolato. Stiamo parlando di Gonja Sufi. Mazzol. Però è scritto mu.zz.le. Lavoro del 2011, da cui andiamo ad ascoltare Rub and Band, la quarta traccia, e poi Venom, la quinta, e poi la conclusione. E ve lo ricordiamo ancora, www.ondarossa.info, sito della radio dove trovate tutte le gli streaming, le produzioni, podcast che la radio seleziona dalle produzioni in diretta e mette in onda. Eccolo qua, Gonja Sufi. Yeah. Vietnam, Vietnam, hey. Vietnam, hey. Vietnam, Vietnam, hey. Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, hey. Vietnam, Vietnam, hey. Vietnam. Ce l'abbiamo fatta, quindi continuiamo con questi temi perché non abbiamo assolutamente esaurito l'argomento e quindi almeno un'altra puntata ce la facciamo proprio la prossima settimana, credo, a meno che non sopraggiungano eventi. Durante questa settimana continueremo a girovagare per i luoghi desolati, sabbiosi, in cui la vita risulta presente ma nascosta, occultata, che si difende da questa assenza di vita. Quindi un saluto importante, il saluto più importante va a tutti e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari in tutti i centri di detenzione per migranti, che sono quelle strutture appositamente create perché non si è in grado di comprendere, capire, perché semplicemente non si vuole capire, perché lo spostamento degli esseri umani può diventare una opportunità di profitto vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Le programmazioni poi riprenderanno questa mattina, ormai si può dire, alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadini redazionali del giovedì mattina, fino alle 13 quando ci sarà il giornale radio. A seguire lo spazio comunicazioni tutta scena cinema alle 14, Attica Blues, oltre la Black Music alle 16, alle 17 le schiene del Sol. Alle 18 il Mezzedes, alle 20 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri, ogni 15 giorni alle 23 Apostasia. I cuginetti, che chissà che anche loro non vogliano impegnarsi in qualche passeggiata nel deserto, lo fanno alle volte. Noi non possiamo che andarcene sotto una torrida luce della luna comunista. Under a Communist Moon, a risentirci a mercoledì prossimo, daje. our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.